Seconda stella a destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere e poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Non è la prima volta che un nostro amico immaginario ha a che fare con il mistero. Dylan Dog, per esempio, qualche tempo fa. Ma questa volta è diverso. Prima di tutto gli amici sono due, un uomo e una donna. Entrambi affascinanti. Lui, alto, moro, con un non so che di riservato. Lei, minuta, apparentemente fredda, un cervello tagliente come una lama. Indagano per mestiere, anche se gli oggetti delle loro indagini non sono semplici delitti. Magari sono sì omicidi, ma di natura diversa, inspiegabile. Sono crimini che hanno elementi specifici e di sicuro originali. Per esempio, la pirocinesi, la capacità di controllare il fuoco. Oppure sono commessi da uomini che ringiovaniscono con il passare degli anni. Oppure da strani esseri, apparentemente umani, che però possono passare attraverso fessure di pochi centimetri. Bisogna dire che non cercano solo assassini i nostri amici immaginari di oggi, più spesso cercano cospiratori, strutture segrete, archivi inconfessabili. Cercano di svelare verità nascoste fidandosi di nessuno. Verità che potrebbero rispondere alla domanda: siamo soli nell'universo? Esistono gli extraterrestri? Perché la verità è là fuori, ma raggiungerla può essere molto, molto difficile. Fox Mulder e Dana Scully, i due agenti dell'FBI che ci hanno fatto scoprire o riscoprire il gusto del mistero con le loro indagini e le loro vicende, pensate e scritte in origine da Chris Carter per la serie televisiva prodotta dalla Fox dal 1993. Una produzione televisiva di incredibile successo grazie soprattutto ai temi trattati, gli UFO, gli alieni, le teorie del complotto, il paranormale. Un successo che ha la faccia di Fox Mulder, che in realtà è quella dell'attore americano David Duchovny, e di Dana Scully, interpretata da Gillian Anderson, e che è stato decretato da un seguito di pubblico come raramente si era visto prima, oltre che dai tanti premi vinti dalla serie. 9 stagioni in tutto, più 2 film per il cinema e una serie di temi così accattivanti e originali per la televisione da meritarsi il titolo di mitologia di X-Files. Ne parleremo. Prima però conosciamo meglio i nostri due amici immaginari di oggi. Cominciamo con Mulder, detto lo spettrale. Lei conosce un agente di nome Fox Mulder? Sì, signore. E come mai? Beh, per la sua reputazione. Si è laureato a Oxford in psicologia e ha scritto una monografia sui delitti seriali e sull'occulto, che aiutò a catturare Monty Props nell'88. È conosciuto come il miglior analista nel campo dei crimini violenti. So che aveva un nomignolo all'Accademia. Lo spettrale Mulder. Nel suo ufficio campeggia un poster, un disco volante che si libra nell'aria sopra la linea degli alberi di un bosco e sotto la scritta I want to believe, voglio credere. Il suo nome completo è Fox William Mulder, è nato il 13 ottobre del 1961 nello stato americano del New England. Narra la leggenda che le sue prime parole, a 11 mesi, furono JFK, le iniziali del presidente John Fitzgerald Kennedy. È un agente speciale dell'FBI e la sua ragione di vita è scoprire la verità sull'esistenza degli extraterrestri e svelare la cospirazione governativa in atto per nascondere la verità. Con la collega Dana Scully lavora sugli X-Files, i casi particolarmente misteriosi e senza ancora soluzione. Hanno punti di vista diversi. Lui crede, lei, almeno all'inizio, no. Adesso basta con le stronzate, Mulder. Cosa sta succedendo? Cosa sai di quei segni? Che cosa sono? Lo vuoi scrivere nel tuo rapporto, eh? Non sei pronta per sapere quello che penso. Sono qui per risolvere questo caso, Mulder. Io voglio la verità. La verità? Quei ragazzi sono stati rapiti. E da chi? O da cosa? Tu non puoi crederci davvero. Fox è un lupo solitario, talvolta paranoico, ma molte volte ha ragione ad esserlo. La sua password è infatti Trust No One ed è il suo mantra, non fidarti di nessuno. La sua passione smodata per i misteri che hanno a che fare con gli alieni ha una ragione drammatica: il rapimento della sorella Samantha dalla propria casa a 8 anni, portata via da una luce accecante. Mulder ne aveva 12 di anni, l'ha vista librarsi nell'aria e da allora, spinto dal senso di colpa per non averla salvata, non smette mai di cercarla e di indagare. Gli X-Files sono la sua unica ragione di vita e nel tempo riesce a convincere Scully delle sue teorie, dal tentativo alieno di colonizzare la Terra all'esistenza di un governo ombra che opera per nascondere la verità. Una e sola: gli alieni sono tra noi. E poi c'è lei, l'altra metà di X-File, quella femminile, fredda ma solo in apparenza, scientifica e razionale, ma pronta a farsi convincere dalle evidenze. Dana Scully. All'inizio è quella scettica, quella che, fra i due, crede meno al carattere soprannaturale dei fenomeni che incontra. Forse anche per il suo background scientifico, Dana Catherine Scully è un medico, un patologo forense, prima di essere un agente speciale dell'FBI. E scettica, in principio, Scully è anche sul suo compagno di lavoro, l'agente Fox Mulder. La loro diventerà però poi un'amicizia di grande complicità. La data di nascita di Scully è 23 febbraio 1964. Capelli rossi, occhi azzurri, alta meno di 1,60 m, sempre una piccola croce al collo. L'infanzia la passa in giro per gli Stati Uniti con la madre e i 3 fratelli, al seguito del padre, ufficiale di marina, in continuo trasferimento per lavoro. Studia fisica e medicina, ma il suo obiettivo è da subito lavorare per il Federal Bureau of Investigation. L'assegnazione agli X-Files deriva dalla razionalità che la contraddistingue. Uno dei suoi soprannomi è Ice Queen, regina di ghiaccio. Agente Scully, grazie per essere venuta subito. Si sieda, prego. Vedo che lei è con noi da poco più di 2 anni. Sì, signore. Ha studiato medicina, però non ha scelto la professione. Perché ha scelto l'FBI? Ecco, sono stata reclutata appena terminata l'università. Per i miei genitori è stato solo un atto di ribellione, ma io ho visto nell'FBI il posto dove realizzare me stessa. Lei conosce un agente di nome Fox Mulder? Sì, signore. Quello che lei non sa è che l'agente Mulder sta svolgendo con maniacale impegno un'inchiesta che non presenta alcun motivo di interesse per questo ufficio. Ha mai sentito parlare del cosiddetto X-File? Sì, non è quello che riguarda fenomeni risultati inspiegabili? Più o meno. Noi l'abbiamo chiamata, agente Scully, perché assista Mulder in questa sua inchiesta. Scriverà dei rapporti accurati su tutto quello che fa, aggiungendovi le sue osservazioni sulla validità del lavoro. Se ho capito bene, signore, il mio compito è quello di screditare l'inchiesta di Mulder. Ci aspettiamo da lei una seria analisi scientifica, agente Scully. Si metta subito in contatto con Mulder. Aspettiamo i suoi rapporti. È mandata quasi a controllare il lavoro di Mulder, a farlo restare il più possibile nel mondo reale, anche se lei stessa arriverà a sperimentare il contatto con gli alieni che le impianteranno un microchip sul collo. Lo farà rimuovere per scoprire che questo oggetto le ha fatto contrarre il cancro, ma anche è l'unica cosa che lo può fermare. Diventerà madre di un bambino con poteri paranormali, venerato dagli alieni. Lo darà in adozione per salvarlo. Dana e Fox, o meglio Mulder e Scully, come si chiamano vicendevolmente la maggior parte delle volte, anche nei momenti più intimi. Beh, senza fraintendimenti, di momenti intimi, baci e cose così, tra i due non ce ne sono stati molti, ma la loro storia, la loro strana relazione è stata una delle più seguite degli ultimi decenni, al pari di Ross e Rachel, Leonard e Penny, Will e Grace e chi più ne ha più ne metta. Bentrovati all'Amico Immaginario. Ripartiamo da Mulder e Scully e da X-Files, la serie TV che ce li ha fatti conoscere. The nominees for best television series drama are Chicago Hope. Uncle's turn every gang. ER. How long till that little voice in your head starts reminding you of all the infinite NYPD Blue. Picket Fences. The X-Files. Resolving this. Now you have his trust. You have to try and negotiate with him. The winner is the X-Files. Quella che avete sentito poco fa era la voce del capitano Kirk di Star Trek, vale a dire William Shatner, che annunciava una delle tante vittorie di X-Files ai Golden Globe. In quell'occasione era il 1995, seguirono identici premi nel 97 e nel 98, con un aumento di audience tra la prima e la seconda stagione del 42%. 9 stagioni in tutto. Negli ultimi 2 episodi venivano risolti gran parte degli interrogativi sulla mitologia di X-Files rimasti in sospeso. Nel 2002 la rivista americana TV Guide ha inserito The X-Files al 37° posto nella classifica dei migliori 50 spettacoli televisivi di tutti i tempi. E a proposito della mitologia di X-Files, di UFO ed extraterrestri in TV se n'era già parlato, seppure non in modo seriale. È stato il cinema, prima e dopo X-Files, a regalarci grandi storie di dischi volanti alieni e un autore su tutti, Steven Spielberg. Se è tutto pronto qui al comando base segreta, suonate i 5 toni. Inconfondibile per gli amanti del genere fantascientifico. Era il 1977 quando sugli schermi di tutto il mondo arrivava Incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg. Il governo americano tenta un contatto con esseri provenienti da un altro pianeta, ottenendo il ritorno di alcune persone che erano state rapite. Un approccio tutto sommato amichevole da parte degli alieni. Più indietro nel tempo, nel 1957, esseri extraterrestri erano atterrati per portare un messaggio di pace. Titolo del film di Robert Wise, Ultimatum alla Terra, pellicola che ha avuto un remake con Keanu Reeves nel 2008. Telefono? Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono! Non ti sei lavato le orecchie stamattina! Ha detto telefono! Casa e di casa telefono! Che cos'è tutta questa roba? E di telefono casa! Oh mio Dio, questo parla ora! E chi non riconosce il grido malinconico dell'extraterrestre più simpatico che si sia mai visto? E.T. 1982, sempre Spielberg a raccontare la commovente storia di un'amicizia fra un alieno dimenticato sulla Terra e un gruppo di bambini. Ma non sempre gli esseri arrivati da altri pianeti sono così benevoli. Catastrofista, spettacolare e minaccioso, Independence Day. Nel film di Roland Emmerich del 1996 veniva raccontata la distruttiva invasione con una pellicola evento da oltre 800 milioni di dollari di incasso nel mondo. Invasione ostile anche nella Guerra dei Mondi, tratto dal romanzo di H.G. Wells che ha avuto 2 versioni, 1953 e 2005. Stile ironico e avventuroso invece per Mars Attack di Tim Burton, datato sempre 1996. Anche Will Smith, già protagonista del film di Emmerich, e Tommy Lee Jones hanno avuto a che fare con creature arrivate dallo spazio. Il 1997 è l'anno di Men in Black, film comico fantascientifico diventato un cult talmente di successo da aver avuto 2 successivi capitoli. Queste le origini e i trascorsi del tema principale della serie che vede protagonisti i nostri 2 amici. Parliamo proprio della serie vera e propria e lo facciamo con il direttore del settimanale Film TV, Mauro Gervasini. Proviamo prima di tutto a capire assieme il contesto in cui nasce The X-Files. Mauro Gervasini. La serie nasce negli anni 90, nel 1993, in un momento, in un periodo, in un decennio che per gli Stati Uniti è stato di straordinaria crescita economica, ma forse anche un pochettino di chiusura in se stessi, nel senso che sembrava che l'allora amministrazione di Clinton, democratica, fosse più rivolta a risolvere problemi interni, soprattutto quelli riguardanti l'economia e l'occupazione. È veramente curioso che i due eventi televisivi che poi influenzano anche moltissimo il cinema e l'immaginario in generale del decennio siano Twin Peaks all'inizio del decennio di David Lynch e appunto X-Files. Due serie televisive completamente diverse tra di loro dal punto di vista estetico e anche per quanto riguarda, se vogliamo, le motivazioni, ma che avevano a che fare però con una matrice con un denominatore comune che era quello del mistero. Un mistero però tutto rivolto all'interno, la piccola comunità di Twin Peaks e le cosiddette teorie del complotto che in qualche modo hanno, secondo una letteratura piuttosto in voga anche oggi, avrebbero condizionato lo scorrere degli eventi sociali e politici degli Stati Uniti dal secondo dopoguerra in poi. Questa è la storia e il contesto, dell'ipotesi di complotto parleremo più avanti ampiamente, ma qual è l'importanza della serie nella storia recente della TV mondiale? Ancora Mauro Gervasini. Io credo che abbia rivoluzionato, credo è anche una cosa piuttosto storicizzata, il linguaggio televisivo, spostando l'asticella un pochettino più avanti, perché mentre prima alcuni di questi degli argomenti che vengono trattati in X-Files, gli argomenti più horror se vogliamo, quindi la scoperta del fantastico, dell'esistenza del fantastico in situazioni di normalità, venivano raccontati in maniera senz'altro più edulcorata, adesso diventano l'epicentro di una serie che fa del mistero, dell'inquietudine, dell'irrazionalità una sorta di leitmotiv continuo. Gli episodi sono più di 200, però diciamo c'è questa sottotrama che scorre attraverso le varie stagioni della cosiddetta invasione aliena, alla quale soltanto Mulder all'inizio sembra credere, e che però invece poi alla fine diventa una realtà nella fiction in qualche modo. E io penso che questo sia stato il motivo di maggiore attrazione, cioè una novità sia linguistica che contenutistica all'interno di una serie, a molti anni di distanza da quella che forse fu la prima occasione di confronto del fantastico del pubblico medio americano, cioè ai confini della realtà. Però mentre ai confini della realtà erano episodi certo straordinari, alcuni dei quali scritti da Richard Matheson, quindi con anche un valore letterario assoluto, ma assolutamente autonomi, indipendenti tra di loro, invece qui parliamo proprio di una irruzione nella serialità, cioè è una storia unica, seppure ovviamente di episodio in episodio, anche con delle diversificazioni, delle parentesi, delle digressioni, anche se vogliamo importanti, ma che scorre attraverso quasi 10 anni, perché poi la serie finisce nel 2002, con però in mezzo anche un film, quindi è stato veramente un evento che ha attraversato la comunicazione, i mezzi di espressione. Mauro, X-Files è ancora in onda anche in Italia, nel nostro caso sulla TV satellitare. A vedere oggi le avventure di Mulder e Scully, per quanto valide, mi pare subiscano una sorta di invecchiamento, forse solo estetico. Che ne dici? Sì, no, è vero, assolutamente. Il nuovo millennio ha riscritto completamente la serialità televisiva. Io credo che forse lo si cominci a considerare come un oggetto di modernariato, diciamo così, da quando c'è stato Lost, perché Lost ha senz'altro fatto fare un balzo in avanti alla serialità fantastica, sul soggetto fantastico. Casomai ci sarebbe però da domandarsi se Lost sarebbe potuta esistere così come la conosciamo se non ci fosse stato X-Files, quindi in realtà c'è una sorta di continuo contagio, no, fra questo tipo di serialità americana. X-Files ha lasciato una grande eredità nell'immaginario, cioè ha fatto scoprire o riscoprire delle paure, tra virgolette, arcane, che fanno parte magari dell'antropologia delle comunità, dei popoli, non soltanto quelle americane. Pensiamo soltanto al lupo mannaro, piuttosto che a questa figura che io peraltro ho conosciuto la prima volta proprio vedendo X-Files, che è il chupacabra, però in realtà è una figura mitologica dei paesi latinoamericani, dei paesi andini, quindi in realtà preesisteva nei confronti di X-Files. Quindi è la prima serie che in maniera sistematica ci ha in qualche modo messo di fronte alle mitologie contemporanee, alle mitologie popolari se vogliamo anche, e lo ha fatto con grande coraggio, perché è riuscito a narrativizzarlo. Penso che invece il problema dell'invecchiamento, tra virgolette, sia un problema più che altro di tipo linguistico, insomma comunque sono passati ormai 20 anni da quando la serie è cominciata, e naturalmente ci sta che ci possa essere questo aspetto un po' antico, ecco. Torneremo a parlare con il direttore di Film TV Mauro Gervasini più avanti, quando ci occuperemo dello sbarco al cinema di X-Files. Rimanendo invece sulla serie TV, un anno fa circa al Comic-Con di San Diego sono stati festeggiati 20 anni della serie in una riunione con autori e protagonisti, tra questi David Duchovny e Gillian Anderson. Proprio la nostra Scully ha sottolineato l'importanza della serie, un'importanza familiare. Sentiamo. Families getting together on a specific night to watch it. C'erano le famiglie riunite in una serata specifica per guardare lo show, e potenzialmente poteva essere l'unica serata della settimana nella quale stavano assieme e cenavano assieme, e poi arrivavano gli amici per vederlo. You know, especially in light of where we find ourselves today with everything being Penso che particolarmente in questo periodo della vita, dove tutto è trasmesso in streaming, tutti guardano singolarmente i programmi, seduti con i loro computer, penso che probabilmente X-Files abbia avuto un vero e proprio impatto emozionale, chimico e fisiologico sulle persone. David Duchovny ha invece ricordato come alcune volte i temi delle puntate potessero essere davvero inquietanti. Qualche volta era disorientante, dice Duchovny. Ricordo per esempio, nella prima serie, l'episodio Bruciati vivi. A un certo punto Chris Carter ci ha detto: sapete, Mulder ha una grande paura del fuoco. E io, cosa? Ma se nell'episodio pilota c'è una scena nella quale Mulder e Scully guardano il motel in fiamme e io stavo benissimo. Quindi qualche volta poteva accadere. Some of that stuff might happen. Bentrovati all'amico immaginario e all'incontro con i nostri amici di oggi, Mulder e Scully. Avanti. Qui c'è solo l'agente più rompipalle dell'FBI. Salve Mulder, sono Dana Scully, lavoreremo insieme. Sto diventando importante, mi hanno addirittura assegnato un aiuto. A chi hai pestato i piedi per finire così in basso, Scully? A dire la verità, io sono contenta di questo incarico. Tu sei molto famoso. Ma va? Invece io ho l'impressione che tu sia stata mandata a spiarmi. Senti, se hai dei dubbi sulle mie qualifiche e sulle mie credenziali, devi so sapere. So tutto. Che... Sei un dottore, sei insegnante all'Accademia. Hai anche una specializzazione in fisica. Il paradosso di Einstein, una nuova interpretazione. Tesi di Dana Scully, queste sì che sono credenziali. Hai perfino riscritto Einstein. Tu hai letto la mia tesi? Certo, e mi è piaciuta anche. Purtroppo nel mio lavoro trovo raramente applicate le leggi della fisica. Abbiamo accennato all'inizio della trasmissione alla cosiddetta mitologia di X-Files. Si tratta in poche parole dei temi principali della serie, quelli su cui si basa l'infrastruttura narrativa. Partiamo dall'esistenza degli extraterrestri e dal complotto di una sorta di governo ombra con uomini ai massimi livelli per nascondere una sola verità. Gli alieni sono sulla Terra da tempo e il governo ombra, il cosiddetto consorzio, lo sa. In realtà gli alieni, vuole la mitologia di X-Files, sulla Terra ci vivevano milioni di anni fa e ora la rivogliono e pianificano una nuova colonizzazione. Tutto questo passando per i rapimenti alieni, la manipolazione genetica e tanto altro ancora. Insomma, la madre di tutte le ipotesi di complotto, quel genere tra fantasia e realtà così in voga anche oggi. Cui prodest? In italiano, chi ne trae vantaggio? Le teorie del complotto nascono quasi tutte da qui, dalla ricerca di una verità alternativa che nell'idea dei complottisti è invece quella corretta, quella realmente accaduta, ma che i poteri forti non racconteranno mai alla massa, perché porta vantaggi solo ad alcuni, gli altri devono rimanere nel buio. Dunque la prole nata da Gesù e dalla Maddalena è protetta nei secoli da templari e illuminati, il codice da Vinci, l'uomo non è mai andato sulla luna, le immagini dell'allunaggio sono state fatte in uno studio cinematografico, mentre invece gli alieni sulla Terra ci sono stati e ce lo hanno sempre nascosto nell'area 51. Difficile credere che le stragi di Ustica e di Bologna siano una punizione degli Stati Uniti per il mancato boicottaggio italiano alle Olimpiadi di Mosca, ma i complottisti pensano anche questo. Esiste un governo ombra del mondo intero, Hitler non è morto nel 45 a Berlino, ma in Argentina, o addirittura sarebbe fuggito in Antartide. Elvis è vivo, Paul McCartney no, morto da anni, ne vediamo un sosia. Le autorità americane sapevano degli attentati dell'11 settembre, ma non li fermarono per avere il favore dell'opinione pubblica negli attacchi in Iraq e Afghanistan. Sono ricostruzioni ipotetiche che smontano quanto ufficialmente affermato per ripercorrere gli avvenimenti in modo fantasioso, talvolta anche maniacale e paranoico, con insabbiamenti, occultamenti e accuse per lo più alle autorità costituite. Di solito la teoria del complotto è improbabile e insieme inconfutabile, è impossibile da negare. E inoltre si applica a tutto. Lo spiega bene Mel Gibson nel film Ipotesi di complotto. L'8 luglio del 1979 tutti i padri dei vincitori di premi Nobel vennero riuniti dalle unità militari dell'esercito delle Nazioni Unite, ok? E costretti, fucili spianati, a donare campioni di seme in piccole buste di plastica che adesso sono immagazzinate sotto la pista di pattinaggio del Rockefeller Center. Lo sai cosa ci mettono nell'acqua, vero? Il fluor. Ah sì, sì, il fluor! Col pretesto che ti rinforza i denti. È ridicolo. Lo sai cosa ti fa quella robaccia? Ti indebolisce la volontà, ti annulla la capacità di pensare in modo libero e creativo e ti fa diventare schiavo del potere. Cospirazioni di tutti i tipi, ipotesi di complotto più fiorenti che mai anche oggi. Perché sono così di moda? Lo chiediamo al giornalista Paolo Attivissimo, padre del servizio antibufala di attivissimo.net. Paolo, perché questo gioco costante? Più che un gioco, ormai è diventato un vero e proprio business. Il fatto di fabbricare una tesi di cospirazione su qualunque evento alimenta un traffico di visitatori, di lettori, di cultori, di seguaci, che poi si traduce molto spesso in un ritorno, se non economico, molto spesso lo è, almeno in ritorno d'immagine, il che significa che si crea, proprio parlando in termini commerciali, si crea un indotto di inviti, conferenze, viaggi. Faccio giusto un esempio: Thierry Messa, che è un autore francese che ha scritto uno dei primissimi libri di cospirazionismo intorno agli attentati dell'11 settembre, si è trovato con un bestseller in tasca, fondamentalmente scrivendo alcune tesi più o meno strampalate che circolavano in rete, è riuscito a vendere abbastanza da ottenere 1 milione di euro di diritti d'autore, traducendo in 28 lingue il suo libro, e poi tuttora viaggia per il mondo facendosi ospitare dalle varie associazioni che ancora sostengono le tesi di complotto sull'11 settembre. Quindi è un business. Nel caso che citi tu di Apollo 20, dietro c'era uno scultore, Thierry Spess, che aveva fabbricato tutta questa costruzione fantastica, anche abbastanza divertente, originale, secondo la quale c'era questa missione congiunta russo-americana segreta per andare a recuperare un'astronave aliena precipitata sulla Luna 1000 anni prima. Dal punto di vista tecnico non sta in piedi, ma il contenuto di immagini era efficace e soprattutto promuoveva le sculture di questo Spess. Al di là della plausibilità delle teorie del complotto o di tutti gli altri temi trattati da X-Files e presenti nelle credenze popolari moderne, perché è così forte, secondo te, la voglia di credere in questi temi, siano alieni, Bigfoot o che so, le sirene? Perché vogliamo credere, in fondo? Ma credo che sia più che altro un problema non tanto di plausibilità, ma di spiegabilità degli eventi. Alcuni psicologi mi spiegano che noi cerchiamo sempre una logica dietro ogni avvenimento. Quando ci manca una spiegazione, ne sentiamo il bisogno talmente tanto che la fabbrichiamo se necessario. Abbiamo questo bisogno innato di collegare i puntini, anche magari dove i puntini non sono collegati. E quindi una presentazione di una mitologia come quella di X-Files, dove tutto ha un senso, tutto avviene secondo un ordine, non esiste il caso, c'è qualcuno che manipola e controlla e comanda tutto, è in un certo senso rassicurante, perché toglie l'angoscia degli avvenimenti casuali. Con il successo di questi temi nel nostro immaginario collettivo, c'entra il web e la sua capacità di diffondere rapidamente contenuti di tutti i tipi? Lo chiediamo a un altro ospite, Giacomo Brunoro, direttore editoriale di LA Case Books, casa editrice che ha pubblicato molti libri su casi alla X-Files, dall'Area 51 al caso Roswell, tutti must per gli appassionati di ufologia. Giacomo. Ci sono vari fattori dal mio punto di vista. Uno sicuramente è la rete. Teniamo conto che quando è scoppiato X-File non c'era la rete, quindi immaginiamoci cosa avrebbero potuto fare in termini anche di metalinguaggio, di metacomunicazione, utilizzando anche la rete. Pensiamo ad esempio a Lost, cosa è stato. La rete perché le informazioni si sono moltiplicate, non sempre chi legge ha voglia o tempo di verificarle, e quindi proliferano magari anche miti e leggende o informazioni non propriamente corrette, che nel campo dell'ufologia, se fai una banalissima search su Google, si troveranno migliaia di siti a proposito. L'altro grosso evento che ha scardinato, secondo me, questi equilibri è stato l'11 settembre, perché dopo quegli eventi drammatici, come ben sai, sono nate teorie di ogni tipo, tra complottisti e invece chi sostiene la teoria ufficiale, anche queste amplificate poi dalla rete e dalla politica, e quindi ci hanno abituato, un po' perché c'era anche la narrativa cinematografica in corso, a diffidare sempre, perché il grande complotto degli anni 60 è stata la morte di Kennedy, che però era comunque ancora un fattore americano. L'11 settembre l'ha fatto esplodere a livello globale, poi noi siamo un paese che tradizionalmente ne ha sui complotti, quindi in Italia si vince facile con il complottismo, mi verrebbe da dire, perché veramente abbiamo una storia infinita. Però questi elementi di diffusione e di spettacolarizzazione anche hanno contribuito a moltiplicarsi di queste realtà. E una ricerca su internet, magari su YouTube, con la semplice parola mistero, ci dà ampiamente la misura di quanto la credulità popolare si nutra di cibo sempre più strano, tanto strano da far storcere il naso forse anche al nostro amico Mulder. Non bastano più gli alieni, oggi passiamo senza batter ciglio dalle sirene agli abitanti di Marte che fanno gli scherzi alle sonde mandate dalla NASA. Scopriamo anche tra l'altro che Gesù è sulla stella Sirio e che da lì partirà per tornare sulla Terra. È bello risentirvi. Spero stiate tutti bene. In moltissimi mi avete scritto comunicandomi che tante mie fiabe hanno trovato poi riscontro nella realtà. Strane notizie da Marte, un'altra anomalia. Da un po' gira in rete questa strana notizia e io ve la presento. In pratica accade che su Marte c'è una roccia in una foto che appena 12 giorni marziani prima non c'era. Chi ha buttato questa pietra? Chi ha lanciato questo sasso? La nostra inchiesta ci porta sulle rive della Francia prima e a Rennes-le-Château dopo. Perché? Perché qui trova collocazione una chiesa del mistero. Sono umanoidi e anche non. Quelli che ho incontrato io nella astronave erano due umanoidi e un umano, molto alto comunque. Loro sono a contatto ovviamente, essendo più alti, no? Quindi hanno contatto anche con mondi angelici, con gerarchia angelica, hanno contatto con Gesù. Gesù è su Sirio, tornerà in astronave, lo so che non sono le persone che dicono cosa. Sirene, il mistero svelato, ha proposto l'affascinante teoria che queste creature leggendarie esistano davvero. Ma torniamo agli UFO, che poi sono un argomento che almeno all'inizio delle loro storie più divide Mulder e Scully, un argomento che divide anche le persone reali, veri o falsi. Sentiamo ancora Giacomo Brunoro. Guarda, alla fine c'è sempre il nodo della dimostrabilità, che purtroppo in molti casi non c'è, o meglio, si dice, non a caso, attenzione, il termine UFO indica un oggetto volante non identificato, non significa che sia alieno. E questa è la sottigliezza che sta alla base, diciamo, di Mulder e Scully. Per Scully si tratta di un oggetto volante non identificato, Mulder è sicuro che sia un alieno. Quindi hanno a loro modo tutti e due ragione, nel senso, tu non puoi dimostrare che non è un alieno, come e quindi Mulder può essere convinto. E questo secondo me è il gioco sottile che dà credibilità comunque anche poi alle tesi più palesemente cinematografiche, che però lì siamo sul punto della narrativa. Però la scienza non può dimostrare una cosa che non esiste, noi possiamo solo dire che non abbiamo prove inconfutabili che gli alieni siano stati qui, ma non possiamo dire che non ci sono stati da un punto di vista scientifico. È un po' un gioco intellettuale che però è la chiave su cui si basano poi tutti quelli invece che sostengono che no, ci sono gli UFO, ci sono prove, perché la scienza non può dimostrare una cosa che in teoria non è esistita, quindi può solo dirti non hai la prova scientifica. Tu ci credi all'esistenza degli extraterrestri, Scully? No, a rigor di logica direi proprio di no. Vista la distanza tra la Terra e gli altri corpi celesti, l'energia necessaria sarebbe superiore alle capacità di qualunque veicolo spaziale. Per la scienza ufficiale, visto che la scienza non riesce a darci delle risposte, perché non consideriamo finalmente plausibile quello che sembra fantastico? Quello che trovo fantasioso è accettare l'idea che esistano delle risposte al di là della realtà della scienza. La scienza offre tutte le risposte, basta sapere dove cercare. Ultima parte dell'Amico Immaginario con Fox Mulder e Dana Scully. Il successo di X-File ha certamente rilanciato l'interesse per l'ufologia in generale, essendo gli alieni uno dei temi della mitologia della serie di cui abbiamo detto. E allora proviamo un confronto tra la fiction e l'ufologia ufficiale con Roberto Pinotti, volto popolare dell'ufologia italiana, segretario generale del Centro Ufologico Nazionale e autore di decine di saggi sul tema. Pinotti, quanto c'è di vero in X-Files? Ma c'è molto di corretto in X-Files. Non dimentichiamo una cosa, che con l'espressione X-Files praticamente si tende a identificare la percentuale diciamo non identificata di casistica anomala largamente di tipo ufologico registrata negli Stati Uniti. Storicamente parlando, su 12.000 e passa segnalazioni effettuate negli Stati Uniti e indagate dall'Aeronautica Militare Americana, come è noto, in oltre 22 anni alla chiusura del Project Blue Book che si occupò della cosa a livello istituzionale, la quantità di casi non identificati era 701 episodi. E sono questi appunto gli X-Files reali, storici. Nella serie una delle verità incontrovertibili che scoprono Mulder e Scully è la presenza degli extraterrestri sul nostro pianeta. Cosa dice su questo l'ufologia ufficiale? Se a qualcuno interessa, io posso dire qual è la mia personale verità, che è mia nel senso che magari non potrò in maniera incontrovertibile dimostrarla. La realtà è che gli UFO non soltanto sono astronauti extraterrestri, come anche alti esponenti della Chiesa Cattolica hanno ultimamente detto, ma evidentemente gli alieni sono qui. Diciamo, sono più specie, tutte umanoidi, alcune non dissimili sostanzialmente da noi, anzi è probabile che noi discendiamo da specie che ha colonizzato parte dell'universo a suo tempo, e quindi l'Homo sapiens è probabilmente una sorta di derivazione di questi esseri, e comunque sulla Terra esistono incontrovertibilmente basi d'appoggio extraterrestri, soprattutto nei nostri oceani, fuori da, diciamo, sguardi indiscreti. Non hanno bisogno di conquistare la Terra, la Terra è già loro da sempre perché la usano come scalo per i loro spostamenti, e di conseguenza dei punti d'appoggio per tutto questo è più che sufficiente. E a proposito di ipotesi di complotto, l'ufologia sostiene che serie TV come X-Files in realtà siano parte di un progetto per abituarci all'idea degli alieni in vista di un loro prossimo arrivo. È così? X-Files fa parte, come altre serie, da Star Trek ai confini della realtà, e come pure una certa produzione hollywoodiana, di un progetto di intelligence partito all'inizio degli anni 50, quando il governo americano, volendo occultare la realtà delle cose alla gente, si è però reso conto che in tutto questo c'era una variabile indipendente e non controllabile. Qualora gli extraterrestri si fossero manifestati di colpo, cosa sarebbe successo? Tutto sarebbe finito, il governo americano sarebbe crollato, e allora l'unica cosa da fare per sperare di mantenere in qualche modo un certo tipo di controllo sulla gente era acculturare lentamente la gente a certi scenari. Ed ecco che Hollywood, la fabbrica dei sogni hollywoodiana, è stata utilizzata come mezzo di acculturazione di massa, e si è cominciato, attraverso la fantascienza prima e successivamente poi attraverso le produzioni televisive, acclimatare il pubblico a tutta una serie di possibilità, in maniera che quando e se tutto questo fosse arrivato di punto in bianco sul capo della gente, la gente fosse un pochino più pronta e in grado anche di reagire meno male. Il file fa parte di questo filone. Questa è la voce dell'ufologia, ringraziamo Roberto Pinotti, ma proviamo a toglierci una curiosità. Lo scettico, anzi lo scientifico Paolo Attivissimo, inventore del servizio antibufala attivissimo.net, crede agli extraterrestri? Chiedendo a tutti quelli che si occupano di astronomia, di esobiologia, l'opinione corrente è molto positiva, molto ottimista, però si divide in due filoni. La prima domanda è: ci sono forme di vita extraterrestre là fuori? La risposta dalla scienza è estremamente probabile che ci siano, sì. Se queste forme di vita sono intelligenti, forse la statistica ci dice che è probabile che ce ne siano. Se queste forme di vita invece vengono a visitarci di nascosto e poi rapiscono le persone, tracciano strani segni nel grano, fanno tutte le cose di cui si occupa la mitologia di X-Files e quella dell'ufologia, allora qui la scienza comincia a dire: dammi delle prove. Finora di prove concrete, robuste, tangibili, non ce ne sono, non abbiamo prove concrete. Quello che ci servirebbe è per esempio un atterraggio di un disco volante durante una finale di mondiale di calcio, qualcosa del genere. Invece stranamente gli extraterrestri, secondo le narrazioni che girano, hanno sempre questa abitudine di andare a visitare di metronotte solitari o cose di questo tipo. La battuta che io faccio spesso, senza voler assolutamente sminuire il lavoro rispettabilissimo di chi fa ufologia seria, è questa: se gli alieni volessero veramente dimostrare la propria esistenza, non si farebbero vedere come puntini sgranati nelle immagini mosse dei telefonini, rapirebbero Piero Angela. Tutto ciò che abbiamo imparato grazie alla fisica, alla chimica, alla biologia, alla paleontologia, all'astronomia, alla biochimica, eccetera, ci porta davvero a ritenere che la possibilità che non siamo soli nell'universo è un'ipotesi più che plausibile. Forse le future generazioni ne sapranno di più. Ancora una battuta con Paolo Attivissimo. C'è un nuovo genere TV che forse sta complicando le cose tra realtà e finzione, la docufiction, cioè i documentari che mischiano appunto elementi credibili con finzione vera e propria. Un esempio su tutti, il programma di Discovery Channel dal titolo Sirene e il mistero svelato, un finto documentario con finte prove dell'esistenza delle sirene, finti anche loro ovviamente. Un falso dichiarato ma con un'impostazione informativa. È questo che aumenta la voglia di credere della gente, o forse la credulità popolare. Paolo Attivissimo. Ma credo che sia o più che altro un problema di linguaggio televisivo. La credulità è quella che c'è sempre stata. Anche in passato ci sono state situazioni in cui si è raccontata una storia alla quale tanti hanno creduto, poi non risultava vera, pur essendo manifestamente improbabile, implausibile. Penso per esempio al primo complotto lunare, per cui si era annunciato da parte di diverse testate giornalistiche che erano state trovate forme di vita sulla Luna, addirittura città attraverso i telescopi, poi era tutta una montatura giornalistica. In realtà poi la gente ci ha creduto, ci credeva e ci crede esattamente allo stesso modo anche adesso. Quello che è cambiato è il registro giornalistico, vale a dire è stato introdotto invece del consueto documentario che ha una funzione didattica molto esplicita, ha un modo di comunicare molto serio, questa forma nuova, questa docufiction, che è un ibrido molto ingannevole, si arriva poi in casi estremi come appunto quello del documentario, anzi è un doppio documentario, sulle sirene, nelle quali si fa fiction presentandola col formato di un documentario, quindi con un approccio serio, perché questo crea spettacolarizzazione, drammaticità, in realtà su una storia che non ha nessun fondamento. Le sirene non ci sono, non esistono, punto, fine della storia. Però se devo riempire i vuoti fra uno spazio pubblicitario e l'altro, purtroppo spesso si ricorre o si viene spinti a ricorrere a questo genere di espediente, si rischia di fare vera e propria disinformazione. La questione secondo me è nelle mani di chi fa informazione, non tanto nelle mani di chi la riceve. Lasciamo UFO, alieni e complotti, veri o falsi, che siano, per parlare di cose più terrene, di sentimenti. Sì, perché Mulder e Scully, i nostri amici di oggi, hanno vissuto in una vita televisiva assieme una relazione sentimentale sempre sotto traccia. Colleghi, amici, vicinissimi e intimi, dopo averne viste di tutti i colori, qualche bacio, molti di questi casuali o dettati da situazioni come i paradossi temporali o le api assassine. Un bacio vero è arrivato solo dopo 7 stagioni, niente di che, un bacio per Capodanno. Forse perché Chris Carter, il creatore di X-Files, non voleva che i due avessero una storia. Sentiamo. Bacio o non bacio, tutti i fan della serie sanno che Fox e Dana in fondo si amano. E se è vero che l'attesa amplifica il desiderio, quel bacio i fan l'hanno atteso e desiderato davvero tanto. Spostiamo questa situazione nel mondo reale. Ne parliamo con la scrittrice Chiara Gamberale. È vera, Chiara, questa storia che l'attesa è necessaria, che rende più bello il dopo? Ma allora, appunto il grande diceva, il piacere dell'attesa è esso stesso un piacere. Io da persona molto impulsiva e molto impaziente comincio, insomma, a 37 anni d'età a pensare che forse in effetti un po' fa da tappeto rosso alle cose belle che poi succedono, un po' d'attesa. Anche qui un anno fa ti avrei risposto diversamente. Certo, il rischio qual è? Pensiamo oggi c'è il virtuale, per esempio, no? Che crea un territorio per l'attesa infinito, le relazioni che nascono su internet e si aspetta di vedersi. Il rischio qual è? Che poi l'attesa diventi un pantano e che poi il momento, la realtà sia deludente rispetto a quanto è stata eccitante, vissuta e intensa questa attesa. Penso sia un meccanismo veramente di sistole e diastole, non a caso utilizzo una metafora che ha a che fare col cuore, cioè bisogna imparare ad aspettare e però poi non scordarsi mai di vivere quando l'attesa è finita, ecco. E nel gioco narrativo Mulder e Scully quel bacio appunto lo hanno rimandato a lungo, di sicuro ostacolati da quello che accade loro, ma anche frenati forse dalla razionalità, una lotta tra cuore e cervello, tra passione appunto e razionalità. Chi vince dei due nel mondo reale, Chiara? Ma generalizzare non va mai bene. Io ad esempio fino a un anno fa ti avrei risposto sì, vince sempre, ha una forza la passione, ha una forza il sentimento che alla fine comunque scardina comunque anche tutti gli ostacoli che la ragione può porre. Poi quest'anno ad esempio ho conosciuto una persona che proprio si è messo a dieta di un'altra persona perché di cui era molto appassionato e con la ragione l'ha dimenticata. No, però è riuscito ad eliminarla dalla sua vita. È un bene questo, è un male? Ma secondo me noi siamo al mondo talmente poco che tanto io non sono per lo Sturm und Drang, cioè abbandonarsi sempre comunque a qualsiasi tipo di passione, però ascoltarla sì, ecco, mi piace pensare che così come ad esempio ci sono tanti matrimoni che non nascono nell'amore, soprattutto c'erano un tempo, così come credo che l'attrazione non possa nascere se non c'è, cioè non può nascere una gratitudine che alla fine chiamiamo amore, un bene, nello stesso modo penso che se c'è è molto molto difficile ucciderla attraverso un percorso razionale. L'amico immaginario, l'incontro con Fox Mulder, Dana Scully e gli X-Files è finito. Un grazie agli ospiti di questa puntata, a Chiara Pizzimenti e Barbara Righini, e a voi per l'ascolto. Un saluto da Giovanni Savarese.